La portantina si fermò. Siamo arrivati? Chiese Talento Nobile, il terzo figlio, al capo portatore. No, padrone, altri 30 passi, ma c'è gente lungo la strada. Padrone, non sono membri della vostra illustre famiglia. Fammi scendere, voglio camminare. Si fece strada attraverso la folla. Davanti all'ingresso una donna piccola e tozza strillava e danzava come una scimmia in gabbia, agitando le braccia con una ferocia impressionante, tanto più che le sue mani erano minuscole, come quelle di un bambino piccolo. La sua faccia era talmente contratta dalla collera che era impossibile distinguere i lineamenti, e una vena purpurea rigonfia la attraversava dall'attaccatura dei capelli alla gola. Sibilava come un mantice divorato dai topi. Cani, pecore, capre, quei figli di tartaruga si accoppiano con qualsiasi cosa, e sputò contro il muro degli spiriti. Talento Nobile digrignò i denti e cercò di scivolare via, ma la donna fu più rapida e lo afferrò per la manica. Non entrate! Poi lo riconobbe, mollò la presa e sollevò un braccio come per ripararsi da un colpo. Pensava forse che si sarebbe insozzato picchiando una vecchia demente? Senza dare alcun segno di averla notata, andò avanti, passando dal muro degli spiriti nel cortile delle udienze. Appena fu scomparso dalla vista, lei riprese la sua invettiva. Eccola uno di quegli aborti, polli, serpenti, conigli e rospi. Nel cortile non c'era nessuno tranne Ciccia che se ne stava con le orecchie incollate al muro. Non lo vide e improvvisamente, prima che lui potesse parlare, guizzò attraverso l'ingresso fino al grande cortile, scuotendo la testa e agitando le mani inorridita. Lui le corse dietro fino agli alloggi delle donne. In prossimità della porta, della sala, delle virtù femminili, Ciccia cominciò a urlare. Oh, oh, se soltanto avessi udito, se soltanto! E quando lui ebbe raggiunto le colonne rosse, l'intera comunità femminile era in subbuglio. Le schiave correvano avanti e indietro con acqua di zenzero per rianimare le anziane che svenivano a causa del resoconto che avevano atteso tanto ansiosamente. Diverse madri alzarono gli occhi al cielo. Oh, pensare che ho lasciato avvicinare quella donna al figlio di mio marito! Sentì dire da una, e le altre annuirono approvando. La voce della seconda prozia si levò sopra il baccano. Ho sempre saputo che la Mahliu aveva qualcosa di brutto in mente. Se voi, sorelle mie, mi aveste ascoltato, forse non saremmo a questo punto, Amitabha! Diede un colpo secco col ventaglio. Aggredire la cuoca con un coltello! Talento Nobile se ne stava nascosto, aspettando di intercettare gli occhi di Talento Coraggioso, il primo figlio. Non sarebbe stato facile. Suo fratello stava al centro della stanza, col dorso rivolto alle colonne, di fronte alla matriarca. Non parlava a voce alta, ma si afferrava qualche frase sopra il trambusto. Figlio mio, fa qualcosa, tu sei il patriarca, devi fare qualcosa. Talento Coraggioso congiunse le mani e si inginocchiò. Cara madre, l'ho già spiegato 100 volte. È la tradizione. È una tradizione che il nostro clan ha sempre rispettato. Chi viene licenziato ha il diritto di ingiuriare il padrone. È una buona regola, protegge coloro che hanno bisogno di essere protetti. Ma si parlerà di noi fino a Shanghai. Può darsi, ma immaginate che vergogna se la riducessi al silenzio e la costringessi ad andarsene. Allora l'intero delta dello Yangtze parlerebbe di noi. Non mi interessano le tue scuse. Fa qualcosa. Fece cenno a una schiava di asciugarle la fronte, mentre Talento Coraggioso alzava gli occhi verso il soffitto, come per cercare ispirazione dagli immortali. Poi lentamente fece un cenno. Ciccia, vieni qui. Sì, padrone. Dì al capo portatore di accompagnare la Mahliu a casa, in grande pompa, nella nostra migliore portantina. Presto, prima che svenga per i suoi sforzi. La matriarca si accigliò, poi si illuminò. Abile, davvero abile. Sono commosso dal vostro elogio. Talento Coraggioso si inchinò di nuovo, soffocando visibilmente una risata. È per via di tutto quel peperoncino rosso, spiegò lei. Emana il chi sbagliato e produce gravi squilibri, riducendo. Ma Talento Nobile, il terzo figlio, non ascoltava più. Era stata persa una guerra e quelli si scaldavano tanto per una sciocchezza. Decise di aspettare il fratello nello studio Ming. Sul ponte dell'andare e venire urtò contro l'una di primavera che si stava affrettando verso il luogo del trambusto, portando con sé diversi fazzoletti di seta color prugna di sua madre. Giovane zio, come mai siete tornato così presto? Dov'è la vostra uniforme? Senza aspettare una risposta, proseguì. Ah, non importa. Venite con me agli alloggi delle donne. Non dovete perdervi lo spettacolo. È come una festa oggi. Stanno succedendo tante cose. E lui osservò la bambina. Aveva le guance rosse e i nastri gialli nella lunga treccia erano disfatti. Oh, zio, non statevene qui. Venite con me. Luna di primavera. Dovresti vergognarti, divertirti dell'angoscia altrui. Lei sussultò, come se le avesse schizzato addosso dell'acqua gelida. Cosa gli succedeva? Una ragazza di 13 anni poteva forse comportarsi diversamente? Si schiarì la gola, volendo dire qualcosa per rassicurarla. Luna di primavera. Non volevo dir nulla di male, giovane zio, davvero. Sorrise timidamente. Lui annuì, sforzandosi di sorridere. E lei ritornò allegra, come prima. Oh, vi prego, venite. La nonna sarà così felice di vedervi. Lei e la mia prozia sono andate in convento a pregare per voi la settimana scorsa. No, no, Luna di primavera. Vedrò tutti più tardi. Prima devo parlare col patriarca. Tu vai pure. Devo mandarlo da voi? Sarebbe un pensiero gentile, nipotina. Annuì, grato all'idea di risparmiarsi gli squittii femminili di sorpresa. Diglielo in privato, non voglio che nessuno ancora sappia della mia presenza. Lo aspetterò nel suo studio. Si protese verso di lei, poi resistette all'impulso di accarezzarle una guancia. Oh, manterrò il vostro segreto, sorrise la ragazzina. Giovane zio, sono contenta che siate a casa sano e salvo. Lui annuì e rimase a osservarla mentre si allontanava, saltellante, giù per i gradini del ponte lungo il sentiero a zigzag. Al crepuscolo, dopo che la Ma Liu fu mandata a casa in pompa magna sulla portantina, i due fratelli sedettero insieme nello studio. Talento coraggioso alla sua scrivania, talento nobile su una delle sedie di palissandro contro il muro. Calmo e risoluto, il fratello più giovane cominciò il discorso che aveva così accuratamente preparato, parlando prima dell'orgoglio e della speranza che aveva provato quando il venerabile aveva mandato entrambi a studiare in Occidente. Ma mentre riferiva gli eventi che avevano condotto alla fine improvvisa della guerra, la collera lo assalì di nuovo. Saltò in piedi e prese a camminare avanti e indietro, le mani chiuse dietro la schiena, scuotendo a ogni passo l'orlo della veste che si apriva e chiudeva, si apriva e chiudeva. Soltanto alla fine della sua invettiva il soldato si rese conto che per tutto il tempo Talento coraggioso era rimasto a sedere impassibile, aspirando di tanto in tanto dalla pipa d'acqua, apparentemente più assorto nei suoi anelli di fumo che in quel che veniva detto. Spazientito, Talento nobile cacciò via il fumo, poi, quando lo sguardo mite del fratello incontrò il suo, sedette di nuovo. Non avendo più nulla da dire, aspettava. Ci fu un lungo silenzio. Fuori delle mura del giardino, la guardia notturna stava facendo la ronda. Sentivano il suo bagaglio di legno e le sue grida: «Vengo! Vengo!» che sarebbero state udite anche dai malfattori e avrebbero evitato uno scontro al buio. Finalmente il fratello maggiore parlò. Le sue parole erano abbastanza sincere, ma al soldato sembrarono inconsistenti e irrilevanti come gli anelli di fumo. Io credo che forse è colpa nostra, del nostro amore per la letteratura, il passato, la famiglia. Scegliamo gli uomini che regolano il nostro benessere, conducono le guerre e amministrano la giustizia esclusivamente sulla base di saggi divisi in 8 parti e di poesie che seguono le regole fissate dalla filosofia degli antichi. Noi, ma Talento Nobile non ascoltava più. Come per propria volontà, la sua mano destra si era stretta in un pugno. Così chiaramente come quando era rimasto sulla spiaggia, vide i corpi dei suoi compagni e poi ebbe una nuova visione: il patriarca della casa dei Chang che si chinava fino a terra davanti ai nani marrone. No! Ma il suo grido era stato del tutto interiore, poiché Talento Coraggioso si limitò a sfregare un fiammifero e a riaccendersi la pipa. Parlava assorto fra una boccata e l'altra. Il mondo moderno non ci lascerà in pace, ma noi non lo sappiamo. Dormiamo come il culi per la strada, sporchi, disprezzati, moribondi, continuando a sognare che esso è un sovrano e un saggio. Noi, fratello? Si sentì urlare Talento Nobile e di nuovo cercò di controllarsi. Io e te non facciamo parte di quel noi. Nostro padre non dormiva, né io né te possiamo farlo, dobbiamo agire. Talento Coraggioso si strinse nelle spalle. E che cosa dovremmo fare? Hai visto i miei tentativi, eppure nemmeno il più piccolo cambiamento è avvenuto nei nostri cortili. Hai visto quanto poco ci è voluto oggi per far sprofondare l'intera famiglia nel caos. Già, e tu te ne stavi là ad ascoltare quelle sciocchezze, io non ti capisco affatto. Il patriarca ebbe un sorriso mesto. Il fatto è che non li considero più delle sciocchezze. Semmai le ho considerate tali. Le donne avevano il diritto di essere sconvolte. La Ma aveva il diritto di dire la sua. Anche la via di mezzo ha i suoi meriti. Parlava come fra sé. Che diritto ho io di svegliare quel Coli? Che male c'è a sognare se allevia la sua sofferenza? A che serve la realtà se cancella la speranza? Si può forse lavare la mente di un uomo senza scolorire la sua anima? Talento Nobile si alzò lentamente, si costrinse a parlare con calma per frenare la bestia dentro di lui, la bestia che ululava di dolore. Che cosa conta il candore dell'anima, fratello, se dei cani carnivori attaccano il Coli mentre dorme? Il mattino dopo le sue ossa saranno sparse e sepolte per essere poi rosicchiate chissà quando. Aspettò, scrutando il volto di Talento Coraggioso, senza leggervi niente, supplicandolo in silenzio. Il più anziano studiò il più giovane per un momento, poi anche lui si alzò. Fa freddo, non senti? Si diresse verso il braciere, sollevò il coperchio e smosse le ceneri, frugando le rosse braci ardenti. Il soldato si avvicinò e versò dentro nuovi tizzoni. Lascia che lo faccia io. Insieme rimasero accanto al braciere mentre il calore si spandeva nella stanza, dapprima impercettibile, poi sempre più palpabile nel silenzio. Giovane fratello. Sì? È tardi. Devo ancora correggere le lezioni di luna di primavera. Ne parleremo di nuovo. Talento Coraggioso tornò alla sua scrivania e raccolse alcuni fogli, e quando abbassò gli occhi sembrò che una porta si fosse chiusa. Dunque era stato congedato. Distogliendo rapidamente gli occhi, timoroso di parlare, di dire quel che non avrebbe mai dovuto essere detto, Talento Nobile girò sui tacchi e lasciò la stanza. Dopo una notte insonne, fu in piedi all'alba, si vestì e scivolò via dai cortili come un fuggiasco. Come la sera precedente, non poteva sopportare la prospettiva dei saluti delle donne, delle loro chiacchiere, dei sorrisi sulle loro facce. Camminò senza meta finché la strada lo portò lontano da casa. Quando il cielo si fece di un azzurro pallido, si ritrovò davanti al palazzo del governo. Era ancora presto, i cancelli erano chiusi, solo qualche postulante si aggirava nei dintorni. Uno o due leggevano i fogli affissi, gli altri stavano vicino all'ingresso, ciascuno sperando di essere il primo ad entrare. Gli avvisi erano i soliti: tributi fiscali, ordinanze di magistrati del distretto, liste di lagnanze personali, annunci di nascite e morti, avvisi pubblicitari, persino vecchie notizie. Lui camminava lungo i cancelli, leggendo un foglio dietro l'altro e cercando ansiosamente, non sapeva cosa. Mentre si avvicinava alla porta principale dello Yamen, apparve un servo del palazzo per incollare un nuovo manifesto e lui si avvicinò per vedere meglio. Scorse i titoli, poi comperò una copia dall'uomo per leggersela. Non era possibile. Anche dopo tutte le sue sconfitte, la Cina non poteva piegarsi a simili condizioni di pace. Stringendo il foglio nella mano, corse verso casa, trovò Talento Coraggioso che faceva i suoi esercizi tai chi nel roseto accanto all'alloggio del patriarca, così assorto in se stesso da ignorare l'intruso. Fratello maggiore! Era ancora senza fiato per la corsa e non poté aggiungere altro. Non puoi aspettare qualche minuto? Talento coraggioso sollevò lentamente il tallone destro fino al ginocchio sinistro, facendo un cerchio aggraziato con le braccia. No, non posso aspettare! E gli ficcò il foglio in mano. A malincuore, questi accettò e si mise a sedere sulla panchina di pietra accanto al pergolato di rose gialle rampicanti. Talento nobile, seduto accanto a lui, aspettava irrequieto che finisse di leggere. La sua mano non voleva saperne di stare tranquilla. Tamburellava sulla coscia una musica sommessa e dolente per le perdite della Cina. Hong Kong, i Lì, Liu Chiu, Annam, la Birmania, la Corea, Quemoi, Matsu, Taiwan. Come poteva suo fratello leggere con quella calma stravolgente, impassibile? Si sentiva come un allievo battuto dal tutore. Le palme brucianti per i colpi di bastone inflitti, ogni territorio ceduto, una vergata. Infine, Talento Coraggioso depose il foglio. «Da dove si prenderanno i 200 milioni di tael d'argento?» scosse la testa, addolorato. «E oltre 3 volte il reddito annuale totale di Pechino, fratello mio, da dove si prenderanno?» Talento nobile rimase a fissarlo incredulo. Le riparazioni erano il minimo. Questo non era un trattato che poneva fine a una guerra, era la fine di una nazione. Anche il fratello maggiore si era trasformato in un topo di biblioteca, abituato a spaccare il capello in quattro e a ignorare la realtà. Non so, fratello mio, rispose, girò sui tacchi e se ne andò. Già mentre attraversava la porta della luna aveva deciso cosa fare e nel giro di un'ora i suoi piani erano completi. Sarebbe andato a sud, a Canton, dove vivevano coloro che più sfuggivano al controllo dell'imperatore, e avrebbe cercato le società segrete di cui si vociferava, intenti a tramare la rivoluzione. Avrebbe semplicemente detto al clan di aver ricevuto recentemente un'offerta dall'impresa di esportazioni e importazioni dei fratelli Sui di Kwangtung, parenti di un suo compagno di corso. All'ultima parte, se non altro, era vera. Per il resto avrebbe cercato di arrangiarsi. Al clan non sarebbe dispiaciuto. Persino un mercante era preferibile a un soldato. Una volta che il sentiero dell'onore gli era divenuto chiaro, Talento nobile si placò. Ora sapeva che presto sarebbe partito e perciò non c'era più alcun bisogno di affrettarsi. Per la prima volta da quando era bambino, cercò la compagnia di sua madre, Alba Luminosa. Ogni giorno sedevano fianco a fianco vicino alla finestra occidentale della sua camera, lui con un libro, lei assorta nei suoi squisiti ricami che erano la sua principale occupazione. Ogni qualvolta nascondeva un punto finale, gli chiedeva di indovinare il segno che rivelava l'inizio o la fine. Lui non ci riusciva mai e ogni volta lei diceva sorridendo: "Così deve essere". La donna non ricordava quando era venuta a vivere nella casa dei Chang, se non che i suoi piedi non erano ancora fasciati. Suo padre era rimasto ucciso mentre era al servizio del venerabile e sua madre era già morta. Lei non aveva nessun altro posto dove andare, il clan l'aveva accolta. La prima moglie del venerabile si era affezionata all'orfana e quando la seconda moglie era morta di colera, aveva suggerito al marito di prendere Alba Luminosa come terza moglie. Era una soluzione ideale, poiché il venerabile doveva presto lasciare Shuchao per occupare una posizione di responsabilità nello Shantung. Aveva bisogno di una compagna e la prima moglie non poteva partire, poiché, secondo la tradizione, avendo avuto un figlio maschio, erede del patriarca, doveva restare nel Lao Chia per servire la suocera. Forse questa storia spiegava perché Alba Luminosa era così arrendevole, comportandosi spesso più come una serva che come la madre del terzo figlio maschio del venerabile. Oppure aveva sentito anche lei le voci sull'uomo che era stato suo padre, guardia personale del venerabile, e su come era morto. Nessuno ne parlava mai, nessuno ne conosceva o chiedeva il nome. Per il nipote era come se egli non fosse mai vissuto se non in storie per metà sentite, per l'altra metà immaginate. Era così anche per sua figlia? Secondo una versione, quando faceva la guardia al servizio della famiglia, era corso via dal suo posto provocando il ferimento o la morte degli uomini a lui affidati. Talvolta le voci dicevano che i banditi avevano tagliato via un dito per avere un anello, talvolta che avevano squarciato la gola di un vecchio o pugnalato cinque giovani alla schiena. Tutte le voci confermavano che l'infelice era tornato per ricevere la sua punizione. Il venerabile, invece, lo aveva fatto sua guardia personale. Gli anni erano passati e infine la guardia era morta salvando la vita del venerabile. Talvolta le voci dicevano che aveva protetto con il proprio corpo il padrone da una pallottola, talvolta che aveva allontanato da lui una tigre ed era stato sbranato, oppure che aveva nascosto il venerabile presso un fiume combattendo contro un branco di lupi. Altre voci ancora dicevano che queste storie eroiche erano tutte il prodotto dell'immaginazione del venerabile, poiché egli doveva pur trovare il modo di alleviare la pena della sua giovane moglie, di confortare il loro figlio, e che invece la guardia era impazzito, si era sparata o era stata uccisa mentre fuggiva di nuovo dal suo posto. Ogni tanto il soldato sentiva che nessuna di queste storie era vera. Quante volte aveva desiderato confidarsi con la madre, ma non lo aveva mai fatto. E ora che stava per lasciarla, si domandava cosa fosse stata la sua vita. Sposata sedicenne a un uomo che aveva il triplo dei suoi anni e rimasta vedova prima dei 40, che sogni le erano rimasti? Che suo figlio un giorno arrivasse a servire l'imperatore, pensò. Che i suoi numerosi discendenti tenessero in ordine la sua tomba, onorassero la casta vedova che era vissuta tutti gli anni della sua lunga vita eternamente fedele al marito defunto. Ma lui non avrebbe mai servito l'imperatore e non si sarebbe sposato né avrebbe avuto figli, poiché il soldato e il rivoluzionario deve essere preparato a morire. Forse lei l'aveva sempre saputo. Quando lui era ancora troppo giovane per leggere, aveva più volte visto le lacrime scivolare dagli occhi di sua madre, prima una, poi un'altra, ciascuna aspettando quietamente il suo turno. Negli ultimi tempi ricamava solo crisantemi. Aveva pensato di chiederle di ricamare un narciso o qualche altro fiore di primavera e dirle basta con questi fiori di autunno, ma non lo aveva mai fatto. La pace non si compra. Il trattato di Shimonesechi fu un invito aperto. Se un gatto rovescia un vaso, il pasto è assicurato per i cani. L'anno dopo, la città celeste di Shuqiao diventò un porto aperto agli europei. La 22ª città dell'impero, soggetta a quelle clausole inique che esoneravano gli inglesi dalla legge cinese, concedendo loro il diritto di stabilire le tariffe cinesi, cedendo le terre cinesi al controllo straniero senza dare nulla in cambio. Finalmente Talento Coraggioso agì, unendosi ad altri letterati delle classi elevate in una società per il rafforzamento nazionale, per tastare la possibilità di una riforma. Come in società analoghe sorte in diverse città, la discussione era vivace. I gentiluomini si incontravano una volta ogni 15 giorni per leggere le parole di Thomas Jefferson e la vita di Napoleone, cercando di reinterpretare il confucianesimo al fine di favorire il processo di modernizzazione. Nell'anno del cane, 1898, 13 delle 18 province cinesi erano cadute sotto l'influenza straniera. Coloro che abitavano entro le mura dei giardini invecchiavano, continuando la loro vita di sempre. 5. Lettere rosse. Quando nasce un figlio si desidera per lui che abbia una moglie, quando nasce una figlia che abbia un marito. Tutti i genitori hanno questi sentimenti. Se, senza aspettare le istruzioni dei genitori e le disposizioni dell'intermediario, i promessi scavano un buco nel muro del giardino per potersi vedere furtivamente, oppure si arrampicano sopra il muro per stare insieme, i genitori e tutti gli altri li disprezzeranno. Il libro dei riti. Gli occhi fissi sul libro aperto, l'una di primavera si intrecciava distrattamente i capelli, assaporando la scena del sogno della camera rossa in cui Giada Nera rinuncia al suo amore infelice. La copia del quaderno in cui la leggiadra Giada Nera aveva registrato le poesie del suo cuore era già in fiamme quando la serva, anatra bianca, ritornò portando il piccolo sgabello fatto di Huali. Ignorando le fiamme, estrasse il libro dal braciere, pestandolo coi suoi gigli dorati finché le ultime scintille furono soffocate. Ma, ahimè, quel che rimase era carbonizzato. Giada Nera chiuse gli occhi, soddisfatta, e si abbandonò sui cuscini. Improvvisamente, dall'altro lato della porta chiusa, una voce si intromise. «Ho le mani occupate, aprimi!» Vieni più tardi, Ciccia, ho da fare. E io più di te, mulo recalcitrante, apri subito. L'astuta vecchia serva era una degna avversaria che sapeva esattamente quando blandirla, darle ordini, ingannarla, supplicarla, farla ragionare o semplicemente prenderla per un orecchio. L'una di primavera mise da parte il suo libro e aprì la porta. Ciccia schizzò dentro, mescolando in una ciotola acqua fredda e polvere di Wumu, sollevando la spatola per controllare la consistenza della crema. Aveva le tasche rigonfie di spazzole per capelli, forcine e pettini. Oh, lo sai che mi pettino sempre da sola, protestò l'una di primavera. Non oggi, mulo lamentoso, siediti. Ciccia mise il Wumu sopra il tavolo della toilette e cominciò a disporci sopra gli utensili di cui aveva bisogno. Tua madre ha ordinato di raccoglierti i capelli in alto. Dice che è giunto il momento che tu ti pettini come una donna. Oh, finalmente! L'una di primavera ormai credeva che non sarebbe mai successo. Ora tutti avrebbero capito quel che lei sapeva già da mesi, che non era più una bambina, ma una donna dalle infinite possibilità, una donna che in qualsiasi momento poteva ritrovarsi sul sentiero del cielo, o diretta allo Yamen, o persino alla lontana Shanghai nella sua portantina rossa di sposa. Sedette con aria dignitosa e rimase a scrutare lo specchio, mentre Ciccia le spalmava la crema su ogni centimetro dei suoi capelli lunghi fino alla vita. Quando la serva ebbe quasi finito, parlò di nuovo. Ciccia. La vecchia aveva un pettine fra le labbra. Ciccia, forse è giunto il momento che tu smetta di chiamarmi mulo di qua e mulo di là. Potresti chiamarmi giovane padrona. Ah sì. La serva le diede un energico colpo di pettine. L'una di primavera rivolse il suo più dolce sorriso all'immagine della vecchia riflessa nello specchio. E allora? E così sia, fece Ciccia. Ora girati in modo che possa vedere cosa faccio. Lavorava rapidamente, fece scorrere il pettine lungo il centro esatto della testa della ragazza, dividendo i capelli e poi arrotolò una lunga coda lucente in un cerchio perfetto sopra l'orecchio sinistro. Con una mano reggeva la crocchia goffamente, togliendosi le forcine di bocca per fissarla, poi ripeté il procedimento sull'altro orecchio. Alla fine indietreggiò per valutare la sua opera. Non c'è male, non c'è male. L'ombra di un sorriso si allargò sulle guance rotonde. Giovane padrona, non sei troppo buffa quando ti comporti bene e stai ferma. L'una di primavera si voltò e lanciò una rapida occhiata nello specchio, poi guardò di nuovo. Era proprio lei. Le due crocchie gemelle della nuova pettinatura accentuavano i suoi zigomi alti e il contorno ovale della faccia. L'immagine riflessa poteva essere quella della leggendaria bellezza Giada Nera, fuggita dalle pagine del libro. Ciccia interruppe le sue fantasticherie. Non c'è tempo per ammirarti. Tua madre e la matriarca ti stanno aspettando. La serva aprì il cassettone di sandalo e tirò fuori i suoi vestiti nuovi. Vieni, vieni. Mi vestirò da sola, come al solito, per piacere. Aspetta fuori. Ciccia allargò le braccia verso l'alto, ma uscì battendo i piedi, senza protestare. Quando se ne fu andata, l'una di primavera si tolse la vestaglia. Rapidamente indossò la tunica di seta color lavanda che le ricadeva dolcemente sotto le ginocchia e si infilò la lunga gonna violetta con le pieghe sui fianchi. Sulle ampie maniche fluenti e sull'alto collo della tunica, sua madre aveva ricamato 16 farfalle in sfumature rosa e verdi. Sorridendo a se stessa, camminò lentamente per la stanza, oscillando sui suoi minuscoli gigli dorati e muovendo con cautela la testa, come se al posto delle crocchie portasse gioielli. Davanti allo specchio si inchinò graziosamente. Il collo piegato in avanti, la schiena diritta, il ginocchio destro che sfiorava appena il pavimento, entrambe le mani che toccavano delicatamente il fianco sinistro. A occhi bassi disse: Questa figlia della casa dei Chang si sente molto indegna delle vostre gentili parole. Io non sono la più bella delle belle. La porta si spalancò, ma la più lenta delle lente. Muoviti ora, vieni. Per una volta l'una di primavera non protestò, limitandosi a seguire la serva che procedeva in gran fretta verso l'alloggio privato della matriarca. Ma i suoi gigli d'oro non potevano tenere il passo coi piedoni di Ciccia e deliberatamente rallentò l'andatura. Perché doveva sforzarsi? Non era un portatore di lettiga che corresse per racimolare qualche soldo in più. Era la giovane padrona. Sulla terrazza si fermò del tutto. Rallenta, Ciccia, non è ancora ora di pranzo, pancia insaziabile. Ciccia, che era già scomparsa attraverso la porta della luna, tornò indietro come un lampo e si inchinò ostentatamente. Questa figlia della casa di Yu è indegna delle tue gentili parole. Così Ciccia aveva visto e udito. Che serva impudente! L'una di primavera le passò accanto a testa alta. Grazie a Buddha si poteva essere certi che la donna, per quanto insolente, non avrebbe chiacchierato in giro. Giunta all'alloggio della matriarca, congedò Ciccia con un cenno, poi si voltò ad affrontare la porta aperta. Si raddrizzò la gonna e lisciò le maniche. Fingi, si disse, fingi che questo sia un giorno come gli altri e non l'inizio della tua nuova vita. Respirando a fondo, attraversò la veranda e passò fra gli antichi cipressi nani che segnavano l'ingresso alla sala di ricevimento della matriarca. Dentro si fermò. Dov'erano i mediatori per il matrimonio? Dov'era l'intermediario? C'erano soltanto la nonna e la madre, intente a ricamare. Ahia! Era stata presuntuosa. Sarebbe stato un giorno come gli altri. Dopotutto,